Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Terza parte di Eclettica, anche per quanto riguarda la settimana in corso. E vediamo di partire con le date dei concerti, per cui ho biglietti a disposizione pochi in questo periodo, ma poi nel mese di novembre ce n'è veramente una caterva. E quelli di questo periodo sono entrambi, visto che sono due, dello Zero Music Club di Azzano San Paolo. Due venerdì di seguito, venerdì 13 il concerto di Bugo e venerdì 20 il concerto dei Marta sui tubi. Ma vi ripeto, tenetevi pronti per novembre. Il modo per vincere i biglietti è sempre il solito: giulio@radiorockfm.com. Vi invito a rimanere in contatto nei due modi che sono possibili, ce ne sono anche degli altri, ma a me piace sottolineare questi due. La lista nera, per iscrivervi un mail sempre a giulio@radiorockfm.com dicendo ne voglio fare parte, o qualunque altra forma comunque sia chiara nelle vostre intenzioni, o andando su myspace.com/eclettica, spazio che sta a poco crescendo, che sta a poco prendendo forma. Nel secondo quarto della notte, Benatar, svegliato da una carezza, immagina in cuor suo che anche nel sonno la prima moglie non dimentichi di ringraziarlo del piacere donatole. Nell'oscurità che dolcemente lo avvolge, accosta alla bocca la mano che lo accarezza per imprimervi ancora un bacio. Ma la ruvidezza della pelle e il calore irradiato verso le sue labbra lo rendono immediatamente consapevole dell'errore e con disgusto respinge la mano dello schiavo nero che, percependo la repulsione del padrone, scompare. E così com'è, nudo e pieno di sonno, Benatar è di nuovo colto dall'apprensione per il viaggio. Questo era l'incipit di Viaggio alla fine del millennio di Abraham B. Yehoshua. It seems almost impossible to make it. Give in to my room and not stay so true. No, stay so going to come. But it seems almost impossible to make them give in to tomorrow and not stay so true. No, stay so dico anche trasmettendoli come pillola, se me l'avessero fatti ascoltare, mi avessero chiesto di indovinare, magari dandomi anche tre tentativi, non ce l'avrei assolutamente fatta. È il nuovo dei Franklin Delano, le loro nuove atmosfere, anche sola, anche con i fiati, come avete sentito, Come Home. album che esce per Ghost Records con distribuzione Audio Globe, in cui sono comprese parecchie collaborazioni sia a livello italiano, nomi che in Eclettica ben conosciamo, come quello dei Ronin, dei Caboto, dei Father Murphy, o nomi che provengono anche dall'estero, ospiti dai Califone, dai Wilco, dai Flying Latte Bakers o anche degli Exploding Star Orchestra, che proprio compaiono all'interno di questo brano con i fiati, brano che ha per titolo I Know My Way. E invece ci siamo ascoltati in apertura di questa terza parte di Eclettica Micah P. Hanson, anche lui oggetto di pillola, però la pillola da prendere durante il giorno è un po' più ritmata, Jack Hyde, sicuramente ritornerà anche alla sera, però come primo passaggio serale dal nuovissimo album di Micah P. Hanson and the Opera Circuit ho voluto andare su un brano che secondo me era più in atmosfera, anche con l'incipit iniziale. Seems Almost Impossible era questo il titolo del pezzo appena ascoltato. Ora ci trasferiamo dalle parti di Radio One, su cui trasmettono Rob the Bank e Chris Coco, che sono usciti con una compilation che viene definita in tutte le recensioni eclettica, quindi non posso non trasmetterla. Rob the Bank e Chris Coco, che conosciamo anche come menti del Tre Giorni dell'Isola di Wight, che di anno in anno si sta rivelando sempre più un'attrazione, uno dei festival che più attirano in Europa. Noi ci ascoltiamo dai due dischi, uno a nome Chris Coco e uno a Rob the Bank, dischi come vi ho detto molto, molto eclettici fra di loro, proprio un brano che di Chris Coco è. Si intitola Andy Warhol, è un brano per cui lo stesso Chris Coco ha dichiarato: non vedo che cosa c'entri con il brano, il titolo che io gli ho dato. Chi ha visto la Madonna? Lui. Elettroencefalogramma bipolare. Spero di non sbagliarmi, accetto smentite all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, ma dovrebbe essere questo in assoluto il primo disco in italiano ad uscire per la GSL, Gold Standard Labs, Gold Standard Laboratories, etichetta ora di Los Angeles, originariamente nata a Boulder, poi trasferita a San Diego, ora a Los Angeles. Uno dei due coproprietari è Omar Rodriguez dei Mars Volta, l'altro è Sonny Kay, un'etichetta sempre su territori abbastanza sperimentali, territori da, su cui fin dall'inizio si trovano gli italiani With Love, formati nel 1995, band capitanata da Nico Vascellari. Infatti questa pubblicazione, A Great Circle, esce come CD e come DVD, un disco doppio, quindi uno da vedere e uno da ascoltare. Quello da vedere è in pratica un breve film di Nico Vascellari stesso. Noi ci siamo ascoltati la traccia numero 4 invece dal CD audio. Se magari riuscirò a capire anche quali sono i titoli delle tracce, ve la riporterò in playlist. Non è facile trovare i titoli delle tracce sulla confezione del disco. Proseguirò nelle ricerche. Per il momento, con una sorta di disallineamento spazio-temporale, ci spostiamo dalle parti dei Balcani, ma è un ukulele che ci accompagna. È quello di Zach Condon, che proviene da Albuquerque. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, were not all bad. We con Beirut, e questo è lo pseudonimo che ha adottato Zach Condon e la sua Postcard from Italy. Siamo quasi arrivati alla chiusura della terza parte di Eclettica in compagnia di Giulio Cappardoni. Ci arriveremo effettivamente con il nuovo dei Super System per Touch and Go, A Million Microphones è il titolo dell'album in questione. Invece il brano con cui si chiude questa terza parte, vi ricordo che ancora ne rimane una per questa settimana, è la traccia numero 10 dal titolo White Light, White Light. Eclettica, fine della terza parte.